America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Multilateralismo. Multilateralismo sotto due punti di vista. Devo dire, io sono un grande sostenitore del multilateralismo, ma il multilateralismo oggi è messo in dubbio da un voto, il voto per Brexit in Gran Bretagna. Multilateralismo che invece ci riguarda direttamente, un voto atteso il 28 di giugno, martedì prossimo, al Palazzo di Vetro alle Nazioni Unite, che dovrà scegliere fra tre paesi, Svezia, Olanda e Italia, per attribuire due dei seggi disponibili per un seggio a rotazione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Dunque, voto molto importante. Partiamo da Brexit. We believe a strong UK and a strong and unified European Union is in everybody's interest. Mike Froman, capo negoziatore americano per il commercio e l'autore del testo, per esempio, del TPP, che ha creato un'area di libero scambio nel Pacifico, e sta lavorando anche al TTIP, cioè il negoziato per la creazione di un'area di libero scambio sull'Atlantico. È molto preoccupato, ribadisce in questa dichiarazione, l'ho incontrato qualche giorno fa qui a New York al Council on Foreign Relations, ribadisce che dal punto di vista americano è essenziale che l'Europa sia forte, solida, unita, e non che vada avanti in ordine sparso. E questo vale soprattutto quando si tratta di un paese dell'importanza della Gran Bretagna. Ecco, devo dire, qui in America la vivono con apprensione anche a livello aziendale, a livello corporate. Pensate, la Ford ha mandato una lettera a tutti i suoi 14.000 dipendenti inglesi, invitandoli a votare per il sì, dicendo: attenzione, che per noi cambieranno molto le cose se a un certo punto dovesse vincere il no. Come dire, magari i vostri posti potranno essere a rischio. Non l'ha detto apertamente, come Jamie Dimon, amministratore delegato di JP Morgan Chase, il quale ha dichiarato l'altro giorno che i 4.000 dipendenti della banca a Londra sono a rischio se dovesse passare il no. Perché? Perché Londra è la capitale di un mercato finanziario integrato. Ovviamente le cose cambierebbero. Ma vi dicevo che c'è un altro tema molto importante che ci riguarda più direttamente, è il tema dell'ingresso dell'Italia al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ecco, con me ai microfoni di America 24 per parlare di questo l'ambasciatore Paolo Fulci, che fu un leggendario rappresentante dell'Italia negli anni 90. Buongiorno ambasciatore. Buongiorno a lei, la sento con molto piacere. Ecco, allora c'è un voto, lei l'esperienza del voto l'ha già vissuta. Che cosa si aspetta da questa concorrenza? Perché sono temibili l'Olanda e la Svezia? Sono temibili perché da un lato l'Olanda tradizionalmente ha sempre fatto una sostanziosa politica di aiuti ai paesi in via di sviluppo, politica che le ha procurate e le procura molta gratitudine da una grande maggioranza dei paesi membri. Anche noi l'abbiamo fatta, ma purtroppo la nostra è stata un po' una cooperazione a zig zag, perché a periodi di vacche grasse sono seguiti periodi di vacche molto molto magre, perché c'erano problemi finanziari in Italia, nel nostro paese, e a quel punto i primi tagli che venivano fatti erano i tagli alla cooperazione. Questo in Olanda non è mai avvenuto. Ecco, io mi ricordo che lei mi raccontava di sue esperienze, che quando lei rappresentò l'Italia al seggio c'erano paesi che non avevano più avuto la cooperazione. Ecco, com'erano questi suoi incontri con questi ambasciatori? Qual è stata la sua strategia? La musica più dolce agli orecchi di ogni persona è il proprio nome, e quindi è importante chiamare tutti per primo nome. Quindi che facevo? Ogni volta che andavo all'Indonesian Lounge, che era il luogo colto degli ambasciatori al Palazzo di Vetro, mi nascondevo dietro una colonna, sbirciavo chi era in sala e quali erano i primi nomi, perché a memoria non li potevo ricordare tutti e 180, e identificato il personaggio entravo con voce squillante chiamando: «Hi Anthony! Hello Tom! Hi Dick!» E questo devo dire che faceva un effetto straordinario. Parliamo dell'anno 1994, e noi eravamo anche allora candidati a un seggio non permanente del Consiglio di Sicurezza, e a Roma erano pieni di dubbi, proprio perché c'era stato un drastico taglio ai nostri aiuti ai paesi in via di sviluppo, e molti mi suggerivano di ritirarci. Anche all'epoca eravamo in tre, c'era la Svezia anche a loro, ma l'altro candidato era ancora più forte perché era la Germania. Ebbene, io allora presi la decisione di andare a visitare uno per uno i miei 181 colleghi di quell'epoca e chiesi loro, ma se ci presentiamo, ce lo date il voto, tanto vale che me lo diciate prima e ci evitiate l'umiliazione, ci ritiriamo in buon ordine. E la risposta fu, guardi, è vero, i vostri aiuti a un certo bel momento si sono troncati, però noi non potremo mai dimenticare che gli aiuti che l'Italia ci dava e che quando può ci dà, vengono sempre dati da pari a pari, guardandoci negli occhi. Non fosse che per questo noi vi appoggeremo anche se non ci date più aiuti. E così fu. La Svezia si ritirò e l'Italia ebbe addirittura più voti della potente Germania. Ecco, e oggi la Svezia in che condizioni è? Perché oltre all'Olanda che dà aiuti c'è anche la Svezia ovviamente che compete. La Svezia oggi gode di un vantaggio che sulla carta non gode. Il numero 2 delle Nazioni Unite di Ban Ki-moon è l'ambasciatore Jan Eliasson, il quale è svedese, è stato ministro degli esteri svedese ed è anche stato rappresentante permanente del suo paese presso le Nazioni Unite. E anche se ovviamente non può e non deve entrare nella campagna elettorale, penso che ciò avrà alla fine il suo peso. Ecco, guardando al voto del 28, lei dunque vede perché è una corsa a tre, nessuno si è ritirato, tutti pensano di potercela fare. Proprio così. È un voto aperto, io quello che posso dire soltanto è che Sebastiano Cardi ho in immensa fiducia, è stato mio collaboratore ai tempi d'oro quando l'Italia vinceva tutte le elezioni all'ONU, ne abbiamo vinte 27 su 28 e ne abbiamo perduto una sola per un solo voto al secondo round, quindi si immagini. E quindi Cardi conosce perfettamente la ricetta per vincere. Ecco, però è anche una questione di voto individuale, cioè lì è l'ambasciatore che vota a scrutinio segreto, quindi è difficile sapere se poi questo voto c'è. Diceva l'ambasciatore americano Pickering, che era un grande conoscitore della macchina dell'ONU, che almeno metà degli ambasciatori delle Nazioni Unite non vota in base alle istruzioni del suo governo, ma in base alla simpatia e antipatia che ha. Da questo punto di vista credo che non potremmo temere confronti perché l'Italia suscita simpatia. Sebastiano Cardi è un campione di questa simpatia, come ho potuto toccare con mano quando era il mio addetto alla comunicazione. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno, abbiamo sempre con me in linea l'ambasciatore Paolo Fulci, presidente della Ferrero, per la scelta della canzone. Ambasciatore, cosa le viene in mente? Qualcosa di simbolico magari per quel che abbiamo detto? Ricordo che quando ero giovane studente Fulbright, negli anni 50, alla New York, alla Columbia University, venne a trovarci la signora Eleanor Roosevelt, la vedova di Franklin Delano Roosevelt. Si riunì, ci fece un lungo discorsetto, alla fine del quale ci disse, guardandoci negli occhi, ricordatevi sempre che nessuno, proprio nessuno, può farvi sentire inferiori se voi non lo consentirete. Ecco, questo è un insegnamento che non ho mai dimenticato. E questo mi riporta anche a un'altra delle mie canzoni preferite del tempo, Smoke Gets Into Your Eyes. Smoke Gets In Your Eyes, benissimo, dunque sempre sguardo aperto e diretto, mai farsi sentire inferiore, come diceva la signora Roosevelt, è vero ambasciatore? Proprio così, mai farsi sentire inferiore. Smoke Gets In Your Eyes. They ask me how I knew my true love was true. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!